tempo di sport. Il biscotto, si parla di quello più che di calcio e di sport, ma d'altronde è così, ne parleremo anche noi, purtroppo per fortuna, questo non lo so. Vedremo Claudio Arrigoni per Radio 24 a tempo di sport, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. Ci credete o no al biscotto soprattutto? E poi così ingiusto alla fine fare dei calcoli in una manifestazione come questa e magari eliminare chi si pensa sia migliore di altri? Il nostro numero verde 800 24 00 24 per la vostra opinione. Poi gli sms 349 238 6666. Abbiamo con noi già pronto Andrea Schianchi, inviato della Gazzetta dello Sport a Euro 2012. Buongiorno Andrea. Buongiorno, ciao. Prima di tutto, prima di farti sentire parole di Marchisio, di Barzagli nell'ultima conferenza stampa, lo chiedo anche a te, allora ci credi poi a questo biscotto? E poi quello che ha chiesto anche ai nostri ascoltatori, è poi così ingiusto alla fine in una manifestazione come questa? Sì, magari non è correttissimo dal punto di vista sportivo, ma è così ingiusto? Guarda, prima di tutto non ci credo, nel senso che secondo me si va in campo per giocare e poi quello che esce, esce. Credo che gli italiani non abbiano nulla da temere, nel senso che il nostro capitano ha chiaramente detto, mi riferisco a Buffon, ha chiaramente detto poco meno di un mese fa che è meglio due feriti che un morto, sì. E quindi se adesso capita a noi, amen, pazienza, voglio dire. Io non credo che comunque la Spagna si presti a questo. La Spagna è la nazionale campione d'Europa in carica, campione del mondo, ha un nome da difendere, non credo che si presti a certi giochetti, francamente. Sentiamo Marchisio allora. C'è da prendere di buono cosa si è fatto in queste due partite, no? E di vedere anche cosa non è andato bene. Ne abbiamo parlato tanto e adesso abbiamo questi due giorni prima della partita per lavorare a quest'ultima, dove conterà tanto non solo la qualità che si metterà in campo, il gioco e tutto, ma veramente grande carattere, grande voglia di raggiungere questa qualificazione, no? Che bisogna tirarla un po' da dentro, no? Anche se ci possa essere un po' di stanchezza perché qualcuno poi giocherà la terza partita di fila o altro, servirà veramente grande voglia di portare a casa questa vittoria per proseguire il più lungo possibile questo europeo. Allora, basterà il carattere, Andrea? No, non credo. Credo che serva, credo che si debba giocare a calcio per 90 minuti e non soltanto per un tempo come abbiamo fatto finora. Credo che la parola carattere, atteggiamento psicologico, mentalità siano in realtà delle parole che nascondono delle lacune tecniche, lacune tattiche che purtroppo la nostra nazionale ha e si porta dietro da diverso tempo. Senti Andrea, c'è questa possibilità, adesso lo sentiremo, anche di questo recupero di Barzagli. Cambierà qualcosa secondo te nel modulo tattico di Prandelli oppure rimarrà il 3-5-2 e con l'inserimento di Barzagli al posto di Bonucci? Ma da quello che ha detto lo stesso CT si dovrebbe continuare a giocare con la difesa 3 perché ha detto che i giocatori si sentono più sicuri così, lui non vuole togliere queste sicurezze ai giocatori, quindi se entrerà Barzagli penso che entri al posto di Bonucci con De Rossi centrale difensivo e Chiellini alla sinistra. Penso che sia più probabile magari un cambiamento sugli esterni perché hanno, ma è un ruolo molto dispendioso quello degli esterni in questo modulo e probabilmente qualche cosa si può cambiare lì. E a parte che potrebbe essere l'ultima chiamata per l'Italia, però al di là di questo e quindi considerando che poi l'Italia andrà avanti, potrebbe anche essere l'ultima chiamata per Cassano Ballotelli? Io penso di sì, voglio dire, nel momento in cui sono state fatte le scelte dei 23 io non ero particolarmente d'accordo perché se voi osservate la lista dei 23 non c'è un attaccante centrale classico, una punta di peso, di ruolo diciamo, tranne Di Natale non c'è un cannoniere, un goleador, perché Balotelli raramente è andato in doppia cifra nella sua carriera e lo stesso dicasi di Cassano. È chiaro che in questo momento noi stiamo pagando moltissimo questo deficit, vediamo che invece altre nazionali funzionano perché gioco del calcio è un gioco abbastanza semplice. Quando hai il portiere che para e un attaccante che la butta dentro, spesso vai avanti. Certo. La Germania ha Gomez che la butta dentro, la Spagna ha trovato adesso Torres, ma comunque la Spagna probabilmente non fa testo perché ha un gioco talmente collaudato che arriva dal Barcellona che non ha questi problemi. Noi invece non abbiamo un terminale offensivo. E da che mondo è mondo le squadre di calcio, secondo me, devono essere costruite per far segnare il terminale offensivo. Certo, assolutamente d'accordo. Andiamo a sentire Barzagli allora sul suo possibile recupero. Mi aspetto di giocare, la voglia è sicuramente di giocare, non di stare a guardare, però non sono io che fa la formazione, il mister, io spero di essere a disposizione, di sentirmi bene, poi lui decide. Io faccio parte del gruppo, sono contento insomma di far parte del gruppo, di essere restato comunque per cercare di essere utile comunque alla causa. Andrea ci scrive al 349-238-6666 Antonio, giustamente dice: parliamo di biscotto, ma se poi vince la Croazia, pure se noi perdiamo con l'Irlanda, effettivamente poi si parla di questo, non si parla invece poi di calcio giocato e di quello che deve essere. Infatti io volevo dire questo, mi ha anticipato l'ascoltatore, perché quando mi hai chiesto se credi nei biscotti ho risposto subito di no, e dopodiché vorrei dire che l'Italia secondo me deve pensare di fare 3 gol, perché così come la Spagna, che è nettamente superiore a noi, ha pareggiato contro di noi, andando addirittura in svantaggio, la stessa cosa può accadere alla Croazia, può esserci lo 0-0, certo. Può esserci l'1-1. Cioè, è un risultato assolutamente possibile, e non sempre nel calcio, ripeto, come dimostrato da Spagna e Italia, non sempre nel calcio vince la squadra più forte. Certo. E quindi noi dobbiamo cercare di metterci al sicuro, perché in caso di pareggio noi dobbiamo fare 3 gol e non subirne neanche uno, altrimenti andiamo a casa. Sì, assolutamente. Intanto biscotto o non biscotto, deve essere chiaro. Certo, poi è chiaro che... Io non so se l'Italia, se questa Italia è in grado di segnare 3 gol. E proprio anche per le cose che accennavi tu, esatto, prima. Facciamo un passo indietro. Ieri Francia e Inghilterra che vincono, Ibra eliminato, Ibra che ancora questi grandi appuntamenti un po' li perde. È così oppure non dipende da lui? Ma guarda, io credo che un giocatore di fatto non è... a meno che non sia Maradona o non sia Messi, di fatto secondo me non è una squadra intera, però penso che ci sia qualche cosa, non tanto nel carattere, perché il carattere francamente secondo me è uguale, che sia che Ibra giochi una partita del campionato italiano sia che giochi una partita in Europa. Io penso che ci sia qualche cosa nel modo di giocare di Ibra che fa sì che in Italia riesca a sfondare e invece in gare europee no, e questo qualche cosa è l'aspetto fisico. Ibra è uno che ha grandissima tecnica, ma che secondo me, peccando, la mette spesso sul fisico, quando invece dovrebbe metterla di più sulla tecnica. Anche ieri si sono visti 3 o 4 contrasti contro Lescott e contro Perry, da cui Ibra è uscito sconfitto, e che francamente erano anche abbastanza inutili, perché lui sarebbe tranquillamente andato via con la sua grandissima destrezza. Ecco, io penso che l'Italia non trovi difensori che lo mettano in soggezione dal punto di vista fisico, perché effettivamente è un armadio, e di armadi così in difesa noi non ne abbiamo, tranne forse Chiellini. Invece dal punto di vista fisico in Europa spesso si trovano dei colossi, e allora lui fa fatica, anche se ieri, va detto, è stato quello che ha concluso 5 volte verso la porta, 4 volte dentro lo specchio. Sì, infatti. Ci ha provato. Assolutamente. Non si può dire che non ci abbia provato, però io credo che lui, dato che ha una grandissima padronanza tecnica, dovrebbe puntare di più su questa tecnica e meno invece sulla forza e meno sulla potenza, perché a volte la potenza gli viene rimbalzata anche da un ragazzino di 20 anni che ha i tuoi stessi centimetri o i tuoi stessi chili di muscoli, invece la tecnica no, la tecnica o ce l'hai o non ce l'hai, e lui ce l'ha. Bene, grazie Andrea, sempre un piacere parlare con Andrea Schianchi, andremo avanti per molto tempo. Grazie Andrea, buon europeo a te. Grazie. 800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666. Adesso ci fermiamo per il traffico, poi ascoltatori, Carlo Genta, parleremo ancora di europeo ma anche di box e basket. Tempo di sport. Claudio Aragoni per Radio 24, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. Parliamo naturalmente di calcio, lo faremo ancora per qualche minuto, ma poi parliamo anche di box, perché è scomparso in questa settimana uno dei più grandi campioni di tutti i tempi della box, Teofilo Stevenson, e sarà un piacere parlarne anche a tempo di sport. Ma naturalmente tengono banco gli europei e tiene banco questa vicenda di possibile biscotto che Spagna e Croazia possano fare per un po' eliminare anche l'Italia. Sentiamo che cosa dice Cesare Prandelli a proposito. Io faccio fatica a seguire queste polemiche, faccio veramente fatica a seguirle. Io non ragiono così. Io parto dal presupposto che abbiamo di fronte una squadra campione del mondo, campione d'Europa, che negli ultimi 10 anni ha divertito tutto il mondo con lo spettacolo, con il bel gioco, con la grande voglia di trasmettere entusiasmo a tutti, e tutti vogliono copiare questa squadra, e io penso che questa squadra pensi al biscotto. Abbiamo dei problemi, per me abbiamo dei problemi se pensiamo a questo. Paolo da Milano, ci crede lei al biscotto? Ma io più che altro sono un po' preoccupato per un altro aspetto. Buonasera intanto, grazie per avermi messo in collegamento. Nel senso che abbiamo sfoderato in questi giorni commenti polemiche, i fantasmi del 2004. Io sono sinceramente più preoccupato dai fantasmi del 2010, dove per qualificarci dovevamo per forza vincere l'ultima partita e non l'abbiamo fatto. Quindi non darei tanto per scontato, ma non per fare il gufo, mi concentrerei su battere prima l'Irlanda e poi quello che faranno gli altri vedremo. Insomma, non credo che sia fondamentale il risultato di Spagna e Croazia se prima noi non vinciamo con l'Irlanda. Certo, quella è la cosa principale. E allora è vero, Carlo, mi riferisco naturalmente a Carlo Genta, grazie per essere qui con noi, anche se so che sei naturalmente in un luogo ben più divertente, giustamente, ma stai seguendo comunque l'europeo. Carlo, è vero, dobbiamo prima naturalmente pensare a battere l'Irlanda, e diceva Andrea Scanchi, dobbiamo batterla con 3 gol. Sì, dobbiamo battere l'Irlanda, batterla con 3 gol, e per una squadra che fa fatica a segnare come la nostra, già questo è un bel problemone. Detto questo, io insomma mi tengo tutti i miei cattivi pensieri, perché insomma la storia del biscotto non è buttata lì per caso, anche se ci ha spernacchiato tutto il mondo dicendo ma voi pensate subito male quando li avete tutti in gabbia, e non hanno torto, però insomma ci siamo già passati anche di lì, no Claudio, 4 anni fa, sì. E dunque fidarsi è bene, fidarsi è doveroso, è obbligatorio, però non fidarsi può essere opportuno secondo me. Poi non so come la pensi tu, però insomma o cambiamo i regolamenti o situazioni di questo tipo sono sinceramente inevitabili, e rientrano anche, volendo, so che di fare un discorso impopolare, nelle logiche dello sport. Perché? Perché Spagna e Croazia avrebbero la possibilità comunque di far fuori una diretta concorrente per il titolo, si sono messe in una posizione di vantaggio e possono in modo antisportivo, se vogliamo, però concretizzare questa posizione di vantaggio che si sono procurate. L'abbiamo visto in molti sport e non solo nel calcio. Sì. Sai bene come nella pallavolo sia stato necessario cambiare i regolamenti, perché si vedeva una miriade di set a perdere e di conti in corso d'opera. Quindi anche questo è lo sport, Claudio, secondo me. No, io sono assolutamente d'accordo con te, l'abbiamo visto, pensate anche nel basket, dove lì è difficilissimo fare i conti, ma è uno sport che nel cuore ci sta, Carlo, però negli Stati Uniti spesso è successo anche questo. Io non ci siamo parlati prima, ma la penso esattamente alla tua maniera. Se il regolamento è questo, ecco, forse possiamo pensare che dal punto di vista sportivo non sia così corretto, però alla fine forse in un torneo di questo tipo non è così ingiusto. L'ho chiesto anche ai nostri radioascoltatori 800 24 00 24, naturalmente, per chi vuole intervenire. E poi ti volevo sottoporre anche, prima abbiamo parlato con Andrea Schianchi, dei nostri terminali offensivi, che forse non sono tali. C'è un SMS che è arrivato al 349-238-6666, dice: ragazzi, vi contraddite da soli, il terminale offensivo c'è e si chiama proprio Di Natale, Prandelli sbaglia a usarlo col contagocce. Volevo per un istante tornare sul discorso di prima, sì. con una precisazione. Forse non è tanto, non sarebbe tanto etico quanto all'essere sportivo, forse sarebbe anche sportivo un tipo di soluzione di questo tipo, però non vorrei alimentare troppe polemiche, passo volentieri oltre quindi alla nostra scarsa pericolosità offensiva. No, allora aspetta Carlo, prima di questa, allora sentiamo Cesare Prandelli, che invece la pensa in maniera diversa, dice: non bisogna pensare alla cultura del sospetto. Noi siamo al 17° posto in Europa, quindi non so il futuro come potrebbe essere roseo se non abbiamo questa determinazione nel cercare di cambiare questa mentalità. Rischiando qualcosa, certo, che ovviamente uno mi può dire: ma sì, ma che fai? Difendi il vantaggio? Cosa? No, perché dobbiamo veramente cercare di andare oltre, avere il coraggio di andare oltre. E io sono convinto che possiamo farlo come mentalità, come italiani. Siamo gente che ha fantasia, che ha voglia di fare. Non siamo solo comunque speculari, non siamo solo che vivono con la cultura del sospetto, no? Vogliamo anche proporre. Allora, dicevamo, alla fine forse sì, non è così etico, però può non essere così ingiusto. Luciano da Brescia, come la pensa? Sì, buonasera. Mi scusi, buonasera. Io volevo fare riferimento, siccome io considero le parole oggigiorno ancora importanti, il nostro capitano della nazionale, prima di partire, mi avevano fatto la domanda per quanto riguarda i pareggi che a volte succedono nei finali. Sì, quei pareggi un po' concordati che comunque destano qualche sospetto, sì. Allora aveva detto che è meglio due feriti che due morti. A parte che usare la parola morti, feriti, oggigiorno è sempre improprio per qualsiasi argomento. Però, voglio dire, cioè, bisogna che ci mettiamo d'accordo su chi deve parlare e su cosa bisogna dire, perché la federazione deve mandare davanti alle telecamere e taccuini persone che sappiano esprimere dei concetti con dei valori. Cioè, è inutile mandare allo sbaraglio, perché a volte Buffon mi sembra un grillo parlante, cioè che parli sempre più di quello che le persone si aspettino. Questo è il mio pensiero, volevo sapere cosa. Sì, sì, sì, guardi Luciano, allora lei ha detto Buffon aveva detto meglio due feriti che un morto. Senta che cosa ha detto in conferenza stampa. Dipende tutto da noi, perché ho la certezza che se dovessimo vincere l'ultima passeremo il turno, perché in questo caso si affrontano due squadre di valore diverso, nel senso che la Spagna è la favoritissima ed è la più forte di tutte, e nella Spagna ci sono giocatori che hanno un pedigree e hanno un excursus che non gli permetterebbe, secondo me, di essere tra virgolette etichettati come antisportivi o far ridere, ecco, l'Europa o il mondo con un 2-2. Eh sì, far ridere dopo il mondo, però effettivamente, come diceva poco fa Luciano da Brescia, alcune volte le parole sono importanti e bisognerebbe pensarci un po' prima di dirle in assoluto. Purtroppo ogni tanto ai nostri calciatori capita. Carlo, però lo chiudiamo questa parentesi, biscotto o non biscotto, giusto o non è giusto? Volentieri. Vabbè, dicevamo, però ci manca questo terminale offensivo, potrebbe essere Di Natale, diceva il nostro ascoltatore. Guarda Claudio, io penso che a prescindere dai nomi sia molto più importante l'atteggiamento, perché per esempio a me Balotelli è piaciuto molto nella gara contro la Croazia, Cassano, finché ne ha avuto, cioè per una quarantina di minuti, l'ha rifornito, ha fatto il suo, comunque ci ha provato. Però se tu vedevi, era la squadra ad essere tremendamente difensiva, cioè c'era un corpo solido dietro, forte, muscolare, eccetera, c'era il deserto, e davanti questi due poveri cristi che erano Balotelli e Cassano, qui arrivavano dei palloni lunghi e fate un po' quello che potete, vediamo se riusciamo a tirar fuori un gol. Io credo che non sia tanto una questione di attaccanti, non sia tanto una questione di scelte degli attaccanti, quanto sia una questione di atteggiamento, perché l'Italia, secondo me, fin qui, ma l'hanno notato in molti, ha avuto un atteggiamento estremamente difensivo. Abbiamo giocato con 5 difensori, con un centrocampo estremamente basso e con il solo Pirlo, cui ovviamente accanisce un effesso, men che meno agli europei, saltano tutti addosso appena riceve la palla. Dunque, secondo me, più che stare a vedere Di Natale o Balotelli o Diamanti o chi per essi, certamente bisogna tenere conto delle energie che hanno, e quelle di Cassano non mi sembrano tantissime, però soprattutto questi attaccanti bisogna aiutarli, cioè bisogna metterli in condizione di fare il loro mestiere, non sei d'accordo? Sì, sì, infatti, ed è anche quello che ha detto Cesare Prandelli. Prima di salutarti te lo faccio ascoltare. Se tu vuoi diventare grande, prima o poi devi trovare anche delle difficoltà forti come sta trovando, e noi siamo qui per aiutarlo, non è che lo stiamo abbandonando. Che se avessi voluto abbandonare probabilmente non sarebbe partito titolare, perché tutta la stampa voleva Balotelli in panchina, adesso tutti Balotelli vogliono tutti Balotelli in campo, è una cosa un po' particolare questa. Si fare il commissario tecnico è sempre la cosa più difficile, Carlo, soprattutto in queste manifestazioni, però io la penso abbastanza come te, alla fine Balotelli è uno che la porta alla punta, quindi ci può stare. Detto questo, hai in nazionale una serie di possibilità, ed è giusto in manifestazioni come queste anche cambiare molto in corsa. Prandelli comunque ha dimostrato di saperlo fare anche 3 giorni prima dell'inizio. Carlo, grazie, ti lascio naturalmente all'acqua e alla piscina, che mi sembra più divertente che parlare di biscotto non biscotto. Ci risentiremo nei prossimi giorni, Carlo. Ciao. Grazie. E intanto altri sms che arrivano dicono: la Spagna non farà il biscotto perché cercherà di eliminare la Croazia per non ritrovarla più avanti e tenere in gioco l'Italia. Quindi una Croazia, per questo nostro ascoltatore che ha mandato un sms al 349-238-6666, che è più temibile probabilmente dell'Italia. E ci fermiamo un attimo sul calcio, che poi riprenderemo naturalmente, perché in questa settimana è mancato uno dei più grandi, non solo boxer, ma anche dei più grandi sportivi che vi siano stati negli ultimi 50 anni, e stiamo parlando di Teofilo Stevenson, il pugile cubano, e quindi apriamo una parentesi anche su di lui, e lo facciamo con piacere insieme a Dario Torromeo del Corriere dello Sport. Buongiorno Dario. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Allora Dario, ti lascio in attesa solo qualche minuto, adesso c'è il meteo e poi sarà un piacere con te parlare di Teofilo Stevenson. A tempo di sport. Claudio Arrigoni per Radio 24 con Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. Stiamo parlando naturalmente di europei e della possibilità che l'Italia se ne torni a casa. Ci sono già degli ascoltatori in linea, ci sono molti sms. Torneremo a parlare di calcio, ma facciamo una parentesi sulla box, perché è mancato uno dei più grandi. Io dico il più grande secondo me, ma so che Dario Torromeo in questo mi contraddice, del Corriere dello Sport. Dario, allora è mancato Stevenson, 3 ori olimpici, 3 mondiali, soprattutto quella frase meravigliosa quando gli offrirono 5 milioni di dollari per combattere contro Ali, e lui disse: cosa sono 5 milioni di dollari davanti all'amore di 8 milioni di cubani? Sì, proprio questo legame con Cuba che ha rafforzato il mito di Stevenson, che è stato sicuramente un grandissimo campione ed ha avuto il grande merito di acquisire una popolarità internazionale pur essendo rimasto dilettante a vita. Stevenson è stato un grande, soprattutto a Cuba, perché era legato a doppio filo con la rivoluzione cubana, l'ha vissuta tutta. Lui aveva 14 anni quando è esordito erano da 2 anni che Fidel Castro aveva proibito il professionismo nell'isola. È stato un grande anche perché è riuscito a smontare il mito americano, cioè nel 64 Joe Frazier, nel 68 George Foreman avevano dominato il mondo dei giganti, dei colossi delle Olimpiadi. È arrivato Stevenson e ha vinto 3 Olimpiadi di fila, ha fatto filato senza non solo mai perdere un match, ovviamente, perché altrimenti non avrebbe vinto le 3 Olimpiadi, ma mai essere messo in discussione. Un solo pugile è riuscito ad arrivare al termine in 3 Olimpiadi e è riuscito a farlo, Eastman Levi, correndo come se fosse la maratona anziché il pugilato. Senti, quanto mancherà al pugilato Teofilo Stevenson, al di là del fatto che è chiaro che non combatteva più, ma quanto mancherà una figura come la sua? Sì, lui secondo me molto, perché era proprio riguardo al pugilato, e parlando essenzialmente del pugilato, perché Stevenson è stato un grandissimo pugile, però purtroppo, come molte volte accade, quando è sceso dal ring ha avuto più problemi di quanti ne avesse avuto quando combatteva. Al pugilato mancherà molto, perché era una figura di riferimento, era un pugile che non si è mai voluto, come diceva lui, sporcare con il professionismo, perché pensava che passare professionista, a prescindere dall'amore degli 8 milioni di cubani, volesse dire macchiare l'immagine dello sportivo. Lo sportivo per lui era un dilettante e basta, i soldi così facevano del male all'atleta. È stato un grande, un pugile che purtroppo, ecco, io mi sarebbe piaciuto vederlo in palestra e provare ad insegnare ai pugili emergenti, anche se è sempre difficile per un pugile di grandissimo talento insegnare, perché i parametri che lui usa per giudicare gli altri e per insegnare agli altri partono da un livello talmente eccezionale che si trova un po' in imbarazzo nel vedere magari un pugile che sta salendo. Però era una figura sicuramente carismatica del pugilato, e il pugilato perde tanto con la sua scomparsa. Tu, nel bellissimo ritratto che hai fatto per boxringweb.net, citi Fidel Castro, dice: avrebbe potuto sconfiggere qualsiasi rivale gli si fosse messo davanti, a parte che insomma Damiani lo ha sconfitto, quindi adesso io ho detto il migliore di tutti, poi il nostro Damiani lo ha sconfitto, no, ma so che con i se e con i ma la storia non si fa, però se quel match, se avesse accettato quei 5 milioni di dollari, come sarebbe finito con Ali? Ma io ripeto quello che ho scritto, cioè con Ali innanzitutto, Ali era in discesa in quel periodo, non era l'Ali dell'inizio, di quanto ha vinto il titolo, di quando era nel pieno del suo fulgore, e soprattutto sarebbe dipeso da che cosa e quale sarebbe stato l'accordo, perché se l'accordo era un match da dilettanti in 3 riprese non ci sarebbe, secondo me, stata storia, avrebbe vinto Stevenson. Se il match fosse stato a livello professionistico, su una distanza più lunga, avrebbe vinto Ali, anche se non era il migliore Ali. Quindi io credo che alla fine si potevano mettere d'accordo, come era la voce in quel momento, per un grosso compenso a Stevenson per fare una serie di esibizioni, e questo aumenta secondo me il no di Stevenson, perché non avrebbe rischiato nulla e avrebbe guadagnato tanto, però ha rinunciato perché per lui la box era la box dilettantistica, lo sport era dilettantistico, e anche andare a fare delle esibizioni guadagnando tanto avrebbe così messo una macchia su quella che era stata tutta la sua carriera. Grazie Dario, è sempre un piacere parlare con te di box, magari lo rifaremo in una delle prossime settimane. Un abbraccio a Dario Toromeo del Corriere dello Sport, abbiamo parlato di Teofilo Stevenson, torniamo adesso però a parlare di nazionale, prima un po' di sms che sono arrivati al 349-238-6666, dice: mi chiedevo, ma questa Inghilterra affidata auction non sia poi tanto peggio di quella gestita da Capello, anzi che ne pensate? Sono assolutamente d'accordo, anzi secondo me addirittura meglio di quella gestita da Capello, e poi Oxon è molto simpatico, quindi un mini tifo per l'Inghilterra forse si può anche fare. Un altro, Xavi, ha detto che non faranno il biscotto, ma potrebbe mai confessarlo davanti all'UEFA? La domanda non può avere una risposta, quindi è inutile chiederlo, certamente non può avere una risposta, però l'atteggiamento che stanno avendo gli spagnoli prima della partita di lunedì fa sperare nel fatto che davvero non ci possa essere questa concessione alla Croazia. Forza Irlanda, forza Trump, fare i grossi con l'Irlanda, siamo veramente alla frutta. Oltretutto gli irlandesi sono pure simpatici, Trump, Trapattoni è simpaticissimo, quindi è vero, forse noi snobbiamo un po' quest'Irlanda, però alla fine io credo che il fatto solo di essere arrivata all'europeo sia una grande vittoria. Biscotto, come ha detto Buffon, meglio due feriti di un morto, di chi si può lamentare l'Italia nel caso? Sì, l'abbiamo sentito anche poco fa Buffon. E poi ancora, se penso che hanno massacrato Lippi per non aver convocato Balo e Cassano, beh, non mi sembrano dei nostri, dice Gian. Balo e Cassano, Balotelli e Cassano, forse ci si aspettava di più, vedremo come andrà a finire nelle prossime partite. Certo è che quella di lunedì davvero potrebbe essere la sua ultima chiamata, la loro ultima chiamata insieme. Un altro sms: Sidney Natale al capocannoniere, un motivo ci sarà, deve giocare davanti a Cassano e Balotelli, ma che cosa dobbiamo difendere? Quindi possibilità anche di un tridente, questa è una delle possibilità comunque che è stata anche paventata. Sentiamo Luigi da Modena. Pronto? Eccoci Luigi, buongiorno. Ah, salve, buongiorno. Senta, no, la mia è una riflessione abbastanza semplice. Prima di tutto non siamo mica certi che l'Irlanda perda con una squadra abbastanza mediocre come l'Italia, insomma, può anche venire fuori un colpo di fortuna. E poi credo che sia anche abbastanza offensivo, insomma, continuare a dire che ci possa essere un biscotto o meno. E infine la cosa che mi fa più riflettere è che ciascuna squadra vuole arrivare alla fase successiva, quindi ognuno si impegna come può, quindi anche la Croazia può ambire a superare il turno. Sì, assolutamente, grazie Luigi, è tutto vero. Io non so se poi è così tanto offensivo, ne parlavamo prima con Carlo Genta, sì, forse non sarà così etico, però se in un torneo strutturato come questo si vuole eliminare una squadra che magari si pensa possa essere insidiosa poi nel proseguo del torneo, alla fine forse qualche calcolo si può anche fare. Poi naturalmente, ripeto, questo magari non è così sportivo, ma stiamo parlando di un torneo nel quale poi si deve arrivare alla fine e magari si vuole anche vincere. Quindi 800 24 00 24 per chi vuole esprimere la propria opinione, come Davide da Cremona. Buongiorno. Io innanzitutto volevo fare i complimenti alla Croazia, perché siccome comunque poi l'Italia ha fatto un bel match, e una cosa che ho sentito poco da tutti gli opinionisti. È vero. Io vedo anche, più che il biscotto, io non so se per la Spagna sarà così facile battere una squadra così, che soprattutto quando si deve difendere è molto quadrata, quindi... comunque ha fatto una grande partita e potrebbe replicarla con la Spagna. In più, secondo me, c'è da dire anche che se biscotto sarà, l'Italia non si potrà lamentare, perché l'Italia, in quanto una delle nazionali principali del panorama mondiale, non può pensare di superare un girone dell'europeo facendo un pareggio con la Croazia e una vittoria con l'Irlanda, secondo me. Sì, questo è verissimo, è anche vero che ci è capitato di fare anche dei gironi di qualificazione magari peggiori e poi magari di vincere i mondiali, quindi ci sta in manifestazioni come queste. Ci fermiamo, il traffico. A tempo di sport. Claudio Arrigoni per Radio 24 a parlare di calcio, ma non solo, abbiamo parlato anche di box, parleremo fra poco di basket, però anche se si gioca un europeo non si ferma il calciomercato. Buongiorno a Michele Cricitiello. Ciao direttore, ben ritrovato, un piacere. Buongiorno a te che poi sei un super esperto di mercato, conducendo lo speciale calciomercato su Sport Italia, appuntamento da non perdere per tutti coloro che amano questi retroscena. Allora Michele, prima ascoltiamo le parole di un grande che se n'è andato dal campionato italiano. Devo mettere a disposizione sia dei miei compagni e della città, del club, non al contrario, perché io qua sono un giocatore, sono un ospite, si azzera tutto, quello che ho fatto prima non c'entra nulla. Allora Gattuso che è andato in Svizzera al Sion. Michele, il Milan ha bloccato Thiago Silva, ha bloccato Ibra. Qualcuno dice, beh, l'ha bloccati adesso, ma poi magari a gennaio qualcosa per loro succede. Che cosa può succedere invece al Milan in entrata e in uscita? Allora, direttore, io sarò onesto. Noi proprio l'altro ieri sera, nel giorno cruciale, alle 21.30, è arrivato l'annuncio dal sito ufficiale del Milan e da Milan Channel che Thiago Silva non partiva e quindi sarebbe rimasto in rossonero. Alle 23.50 in diretta nella nostra trasmissione speciale Calciomercato su Sport Italia è intervenuto il presidente Silvio Berlusconi. Berlusconi è stato chiaro, è stato chiarissimo ed è stato onesto. Thiago Silva noi volevamo cederlo per 46 milioni di euro perché in questo momento particolare, ovviamente in questo momento di crisi generale, anche difficile per la mia famiglia, e ha definito una rapina del millennio la vicenda del lodo Mondadori, ovviamente aveva bisogno di quei soldi il Milan, la Fininvest come holding che gestisce il club di Via Turati. Una volta che comunque il Milan e prevale il cuore rossonero, così come ha detto Silvio Berlusconi, Thiago Silva non va via, Ibrahimovic non va via, il rapporto con Galliani è più forte rispetto anche a 26 anni fa. Il Milan non cede due perle, però deve adeguare il contratto di Thiago Silva da 4,5 a 6,5, 7. Il Milan prenderà Acerbi in questo momento in comproprietà tra il Chievo Verona e il Genoa. Per quanto riguarda il centrocampo arriverà un altro innesto e forse l'unico che partirà a questo punto sarà Robinho, se non accetterà un ritocco al contratto, ovvero prolungare ma diminuire l'ingaggio, perché ad oggi 6 milioni e mezzo di Robinho sono troppi nelle casse di Via Turati. Michele, solo un'ultima cosa prima di lasciarti al tuo lavoro, senti cosa ha detto Pietro Leonardi, amministratore delegato del Parma, sulla trattativa Giovinco-Juventus a Sky Sport. Io ritengo e considero Giovinco il più forte calciatore che c'è ora in Italia, italiano, a tutti gli effetti. Vedo e leggo numeri da altre parti, non capisco perché si deve dare una valutazione anche nell'ambito della mediazione, perciò chi fa effetto mediatico, televisioni, giornali, inferiore a altri calciatori che non hanno dimostrato e che secondo me sono inferiori a Giovinco. Se la Juve dimostra concretamente di volere questo calciatore, penso che sia giusto che lui ritorni lì. Per quanto ci riguarda, però, non è che per questo motivo dobbiamo essere noi a mettere il tappeto rosso. Allora Michele, solo schermaglie e poi Giovinco vestirà la maglia della Juve? Dipende, solo schermaglie, però se la Juventus non si presenta con 7-8 milioni di euro il giocatore rischia seriamente di finire alle buste. Far finire alle buste un'operazione come quella di Giovinco, sappiamo bene che tra i due litiganti di solito a godere sempre il terzo incomodo, questa volta c'è, è l'Inter, però al mio avviso hanno ancora 6 giorni a disposizione Parma e Juventus per mettersi d'accordo. 8 milioni è la cifra che può essere quella decisiva e quella giusta per far sì che Giovinco torni alla Juventus. Nel frattempo, visto che comunque ne approfitto della vostra emittente anche per dare comunque una notizia che a mio avviso diventerà concreta da lunedì martedì, l'Atalanta e la Juventus stanno raggiungendo proprio in queste ore un accordo per il trasferimento da Bergamo a Torino di Manolo Gabbiadini. Avrà un contratto di 4 anni, il suo procuratore Silvio Pagliari è tornato in Italia da poche ore dopo che aveva trattato anche con tedeschi ed inglesi. Alla fine vestirà probabilmente la maglia della Juventus Manolo Gabbiadini, ma giocherà in prestito. Tra le ipotesi come prestito Chievo Verona in Pol e poi le alternative Bologna e Catania. Grazie Michele, grazie anche per questa ultima chicca, speciale calciomercato su Sport Italia, l'appuntamento con Michele Criscitiello. Prima di chiudere, uno sguardo anche sulla pallacanestro, perché si è giocata anche gara 4 fra Milano e Siena per la finale del basket. Allora, Milano ha battuto un colpo, Gerry De Rosa, buongiorno Gerry. Ciao Claudio, buongiorno a tutti. Dicevo, Milano ha battuto un colpo, ma naturalmente l'ha battuto troppo tardi, quello scudetto se n'è andato via in gara 3. No, al 99% sì, resta un 1% guadagnato ieri da Milano con questa vittoria. Secondo me adesso l'atteggiamento del Milano è quello di andare a Siena a giocarsi domani una partita secca, vincendo la quale si troverebbe diciamo, ha recuperato il servizio. Insomma, Milano deve pensare di aver perso solo una volta il servizio contro Siena e non guardare al fatto che era 3-0 fino a ieri. Però insomma, le speranze sono ancora molto risicate. Però davvero quei momenti di gara 3 in cui Milano poteva chiudere la partita pensando alla vittoria di ieri sera fanno pensare abbastanza. Sì, anche se secondo me, se si guarda nel complesso la serie, il pallino l'ha sempre avuto in mano Siena. Sì, certo. Anche nelle partite giocate in Toscana, il Montepaschi ha aperto, ogni tanto ha lasciato aperta qualche piccola finestra per Milano. Milano non è praticamente quasi mai riuscita ad inserirsi, ce l'ha fatta un po' di più in gara 3, ma poi è sempre di fatto Siena che chiude queste finestre. L'ultima volta in gara 3 con due o tre giocate di Sapienza, di Storruk, che secondo me ormai a fine carriera, con problemi fisici abbastanza evidenti, però con come intelligenza cestistica avanti a tutti gli altri in maniera abbastanza netta, e nel finale con quel tocco dopo il tiro libero lo ha fatto vedere, insomma, anche con quel fallo subito togliendo la sedia, come si dice in gergo, da Borussis, ha fatto vedere che si può essere decisivi anche quando ormai il fisico non risponde più. Sì, assolutamente. Scommesse chiuse, quindi, Jerry, non stiamo neanche a parlarne. No, secondo me se Milano riesce a metterla sulla, se entra in campo con convinto a giocare una finale, non è detto che non. Secondo me in gara 1 a Siena ha dimostrato che Milano, se gioca al massimo e se trova Siena non al massimo, cosa che secondo me è possibile, visto che la squadra di Pianigiani è abbastanza stanca, è vero che ha una lunga rotazione, però non sta giocando al massimo secondo me in queste finali. Domani Milano magari può far l'impresa, può anche vincere contando che la partita secca. È chiaro che deve vincere tre una dietro l'altra, e questo vuol dire che Siena al 99% di vincere lo scudetto e Milano 1, l'1%. Certo. Per chiudere, diamo uno sguardo anche dall'altra parte dell'oceano, con gara 3 che si gioca questa notte, con Miami che ha ristabilito il pareggio. Sì, sarà una serie molto tirata e molto equilibrata, nella quale credo che il fattore campo non sarà fondamentale, non sarà importantissimo, e quindi vuol dire anche che Oklahoma City riuscirà a recuperare il break fatto da Miami in gara 2. Però saranno tutte partite molto tirate. Credo che alla fine la maggiore freschezza di Oklahoma City, che non ha solo due giocatori che possono essere decisivi, ma ne ha più di due, potrà appunto portare alla vittoria la squadra di Kevin Durant, James Harden e Westbrook. Grazie a Jerry De Rosa, buon basket su Sky Sport, soprattutto per l'appuntamento olimpico. Chiudiamo dunque l'appuntamento per oggi, naturalmente domani 17-18 di nuovo con A Tempo di Sport. Buona serata da Claudio Arrigoni, redazione Giorgio De Luca, in regia Pietro Lacorte. Grazie a loro e buona serata.